I'm talking about Brexit. I'm talking about the difference, which Americans also know very well, between patriotism and nationalism. A patriot can criticize his country, stay with it, and go through the democratic process. A nationalist needs enemies. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Allora, questa che abbiamo sentito era la voce che tu hai detto, una voce un inglese limpido, eccezionale. Sì, un inglese così bello raramente lo si ascolta. Poi naturalmente tutto dipende dai gusti, però erano le parole di John Le Carré, morto ieri a 91 anni. Era a 89 anni, scusate, era del 1931, uno dei più grandi scrittori britannici, riduttivo descriverlo come uno scrittore di spy stories, era stato una spia prima di diventare uno scrittore. E abbiamo scelto questo brano di un'intervista concessa un anno fa nella sua casa di campagna, perché lui ha fatto una campagna per appena si è iniziato a parlare di Brexit, e fino al famoso giugno 2016, la data del referendum, lui era contro la Brexit. E qui dice, sono stati solleticati quegli istinti dei britannici, che anche gli americani conoscono bene e che hanno portato a fare una differenza tra il patriottismo, che significa mettere in discussione i valori del tuo paese anche quando non li condividi fino in fondo, e il nazionalismo, che invece ha sempre bisogno di nemici. E credo, insomma, sia una cosa che sperimentiamo molti, no? Questo bisogno di alcuni politici di spostare l'attenzione creando dei nuovi nemici, nel caso naturalmente della campagna di Brexiteers, ce lo ricordiamo, il partito pro-Brexit, il nemico era diventato l'Unione Europea. Giusto. E questo insomma è su tutti i giornali britannici. Poi non lo so, io secondo me così una nota personale, secondo me il suo libro più bello da cui è stato tratto un film è il giardiniere tenace, The Constant Gardener. Rachel Weisz ha vinto anche un Oscar per quel film, insomma molto naturalmente viene ricordato sia per i suoi libri, per le tante trasposizioni al cinema. Una figura, è morto di polmonite, ufficialmente non di Covid, però insomma facciamo 2 più 2, morire di polmonite a 89 anni, probabilmente, se non è stato il Covid, qualcosa ha contato anche. Sì, comunque insomma 89 anni, alla polmonite può essere anche, esatto, la polmonite, anche quella, esatto, tradizionale, purtroppo ahimè, se non presa per tempo, può essere comunque letale. John Le Carré. Adesso invece, Giulia, mi stavi anticipando prima che andassimo in onda che insomma i giornali, soprattutto quelli americani, sono tappezzati di foto sulla campagna di vaccinazione che sta, tra l'altro, è partita. Tra l'altro piacerebbe che gli ascoltatori la vedessero. La prima pagina di USA Today è un lungo, in fondo c'è l'obelisco che identifica un po' per tutti Washington, c'è questo tappeto disegnato che sarebbe lungo 2000 e oltre piedi, e dice il USA Today: questo è quello che sarebbe un tappeto, sarebbe così lungo e così largo se potesse contenere 300.000 candeline, cioè una candelina per ogni vittima del Covid fino ad ora negli Stati Uniti. Quindi la situazione continua a essere grave per quanto riguarda nuovi contagi e bilancio dei morti ogni giorno. Da qui New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, tutti, come se oggi non fosse il 14 dicembre in cui c'è il famoso voto dei grandi elettori, tutti hanno queste foto dei centri dove si preparano queste specie di piccoli frigoriferi che poi vengono portati sugli aerei, e a seconda naturalmente delle distanze che devono coprire questi aerei, che copriranno tutti e 50 gli stati americani, sono naturalmente un po' diversi, perché sappiamo questo è il vaccino di Pfizer BioNTech, quello che ha bisogno di temperature molto basse. La logistica per altri tipi di vaccini potrebbe essere leggermente più semplice. Stavi dicendo che se non fosse per questa vaccinazione che sta partendo proprio adesso, le prime pagine sarebbero occupate dalla data di oggi, che è la data che segna l'avvio della nuova presidenza, in pratica. Sì, diciamo che l'inaugurazione sarà il 20 gennaio e fino a quel giorno Joe Biden sarà il president elect. Però quello che il New York Times definisce fino alle ultime elezioni era un rubber stamping event, cioè un evento burocratico rubber stamping, dove era semplicemente un passaggio burocratico, cioè si doveva solo mettere un timbro. Quest'anno naturalmente non è così, siccome anche per ragioni di sicurezza ogni stato terrà il suo voto ufficiale, possibilmente di persona, tutti in location segrete, questo per la paura di disordini Sardini e per la paura che hanno queste persone che devono, i grandi elettori che devono votare, lo sappiamo, è un voto scontato, per questo si dice che era un passaggio burocratico, loro devono votare o democratico o repubblicano a seconda di quello che è stato le elezioni, però con tutto quello che è successo negli ultimi giorni sta diventando quasi una, appunto, votazione in segreto, e tra l'altro tutto questo in un clima che, dove comunque, oltre ai supporter di Trump che continuano a pensare che le elezioni siano truccate, a proposito di complottismo, l'ultimo sondaggio dice che solo il 61% degli americani è disposto a farsi vaccinare, il 32% per ora non è disposto, quindi resta un tema, insomma, che il vaccino non è la panacea negli Stati Uniti, perché ci sono percentuali molto alte di persone scettiche. Ma se vuoi sentiamo la voce di Donald Trump proprio a proposito di questo grande traguardo tagliato dell'inizio della somministrazione dei vaccini. If I wasn't president, according to almost everybody, even the enemy, if I wasn't president, you wouldn't have a vaccine for 5 years, okay? I pushed the FDA and companies and everybody else involved like nobody's ever been pushed before. Ecco, dice, se io non fossi presidente, e questo lo dicono tutti, compreso il nemico. Questa è una parola che mi fa molto effetto, cioè lui vede ancora chi non ha votato per lui o comunque il Partito Democratico come il nemico, e torniamo alle parole di Le Carré, però nella sostanza dice, se non fossi presidente, cioè se non fosse stato per la mia presidenza, ho fatto questo push sull'FDA, sulle aziende eccetera, il vaccino lo avremmo avuto tra 5 anni, naturalmente non avremo mai la controprova, però lo abbiamo detto e lo ridiciamo, Donald Trump è riuscito a costruire questa alleanza pubblico-privato mettendo sul piatto 200 miliardi di dollari, e in effetti si è arrivati a un vaccino, il primo è quello di Pfizer, Pfizer sì con BioNTech che è tedesca ma Pfizer è americana, è il primo vaccino e come vediamo già è iniziata la somministrazione nel Regno Unito, inizia oggi negli Stati Uniti, il 27 dicembre inizia in Israele, quindi sicuramente è un successo, punto, dopodiché continuare a additare invece il anche perché c'è stato questo voto della Corte Suprema, insomma il voto del ricorso presentato dal Texas a nome di altri 4 stati oltre al Texas ed è stato bocciato 9-0 dalla Corte Suprema, quindi a questo punto il 20 gennaio Biden sarà presidente. È curioso a proposito di Trump e dei vaccini che i negazionisti Novax, nostrani, complottisti vari che hanno per molte cose in Trump un punto di riferimento non tengono conto invece che sui vaccini Trump è sempre stato un super vaccinista, tant'è vero che sperava di esserci rieletto, poi non sono andate così le cose come sperava lui. Ancora qualche secondo? Dal Belgio, perché sappiamo, in Germania potete immaginare i giochi di parole Montag, Dienstag, lockdown, quindi lunedì, martedì, e poi non viene mercoledì ma viene il giorno del lockdown, mercoledì, mentre Le Soir, il quotidiano belga, anche in Belgio misure molto restrittive per il Natale, sondaggio, 8 belgi su 10 rispetteranno le regole che sono state date loro per Natale, nessuno le vuole mettere in discussione, lo stesso in Germania, addirittura in Germania, e nonostante io sia mezza tedesca già questo basterebbe, ma vorrei proprio essere in Germania oggi, perché l'unica piccola critica che viene fatta in un editoriale sulla faccia alla Merkel è il breve medio termine va benissimo, non ci sono motivi per contrastare queste decisioni di misure più dure, chiediamo a questo punto ancora uno sguardo ancora più lungo termine, che cosa faremo dopo, cambieremo i piani pandemici, cambieremo la struttura degli ospedali perché magari arriverà un altro virus. Ecco, questa idea di visione e di andare avanti, perché la scienza dice di andare avanti, la invidio tanto. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi con Jacopo De Franchi, redazione Andrea Roccabella e regia, vi lascio ad hashtag autotrasporti, ciao.